Voci 2018-1938. La legislazione razzista in Italia dopo l'abrogazione. Dal laboratorio di scrittura del progetto Voci 2018. Spiegatemi cosa sta accadendo. Parlatemi delle vostre storie. Ditemi, sono diverse le vostre case? Come apparecchiate la vostra tavola? Come mettete a letto i vostri figli? Come state con gli altri? Come state in famiglia? Come state da soli? Non calpestare un uomo, una donna, un bambino è mancanza di coraggio? Venire via dal fronte, tornare a casa a lavorare e ad abbracciare i propri cari è vigliaccheria? Spiegatemi la differenza tra amico e nemico. Guardatevi l'un l'altro. Osservate le vostre differenze. Ascoltate la parola non vostra. Che cosa importa se non mi vogliono bene? Se non ho la loro protezione, l'affetto che voglio? Che cosa importa se anche io non li amo? E se il tempo fosse di più? E se dietro a questo malessere ci fosse qualcosa di buono? Non importa cosa pensano della mia pelle. Che cosa importa se non li vedo ancora? In questo odio ne esco vincitore. Io sono quello che sono. Sono invisibile alla gente, se parlassi raramente. Che cosa importa se non mi vogliono bene? Che cosa importa se anche io non li amo? Confondiamo la vita con rose e fiori. Ma dietro c'è sempre l'inverno e la sua storia. Siamo il popolo eletto. Quelli dell'unico Dio possibile. Gli altri non meritano nulla, ma basta non vederli. Volgere lo sguardo verso il bello. Le nostre belle vetrine, l'ultima moda, l'ultimo Dio. Quello rimasto a piangere al termine dell'ultima guerra santa. Thank you. Il fascismo italiano coltiva fin dall'inizio l'anti-ebraismo, ma non se lo pone come obiettivo primario. Gli ebrei in Italia sono pochi e sono perfettamente inseriti nella classe dirigente. Hanno partecipato al Risorgimento, hanno partecipato alla Prima Guerra Mondiale e sono stati decorati al valor militare. E tuttavia il razzismo antisemita è parte strutturale del fascismo, come peraltro rivendicò Il Popolo d'Italia, giornale fondato da Benito Mussolini, dicendo: al momento della promulgazione delle leggi razziste, il razzismo italiano data dall'anno 1919 ed è base fondamentale dello Stato fascista. Questo antisemitismo rivendicato fin dalle origini ha fondamento nel nazionalismo dell'età degli imperialismi, al quale il fascismo attinge e dopo la tragedia della Prima Guerra Mondiale ne raccoglie tutti gli elementi e li porta a sistema. Un razzismo antisemita che è fatto di elementi culturali e di elementi politici. Gli elementi politici vengono posposti, come abbiamo accennato, ma nella cultura è forte e diffuso. Per esempio Papini nel 1923, scrivendo un libro che si intitola I 12 avvisi dell'uomo salvatico, è una sorta di pamphlet, dedica agli ebrei questo atteggiamento. Il termine giudeo ricorre moltissimo e viene rappresentato per l'avidità, la disposizione alla truffa, l'abituale sozzura, degenerazione e sadismo, al quale riesce facile legare l'egemonia sulle metropoli famose per la superbia e il vizio, in connessione naturalmente con un famoso testo, I protocolli degli anziani di Sion, un falso costruito dalla polizia russa nel 1903, che ha avuto una grande fortuna in giro per il mondo e che l'ha ancora oggi, per esempio, nei paesi arabi. Questo libro, riconosciuto come falso fin dall'inizio e che è stato abbandonato in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la fine dei fascismi, ha avuto una grande fortuna nell'Egitto di Nasser e di Sadat, l'ha avuta presso Re Faisal dell'Arabia Saudita, presso Gheddafi in Libia, presso altri politici del mondo arabo, il Gran Mufti di Gerusalemme. Hamas lo considera un testo fondamentale, così come il ministro dell'istruzione dell'attuale Arabia Saudita. Insiste Papini con questa invettiva contro gli ebrei, carnagione color mota verdiccia di palude, che ha l'aspetto poverissimo e l'espressione di un cane che teme d'essere picchiato, ma sa pure d'essere necessario. L'intelligenza ebraica da un secolo a questa parte, per vendicarsi della cristianità, non ha fatto altro che scalzarne e insudiciarne le più care credenze, e via discorrendo. Da Raimondi, Mussolini al governo, rivista di Milano, 10 novembre 1922. La mattina del 27 ottobre sono andato da Mussolini. La redazione del Popolo d'Italia era piena di giovani in camicia nera armati di moschetti, rivoltelle e pugnali. Una barricata era presidiata da una squadra fascista in pieno assetto romantico di guerra. Il nostro colloquio fu brevissimo. «Mussolini», gli dissi, Oggi ci ritroviamo per la battaglia che in maniere diverse auspicammo. Sono a vostra disposizione. Mi tese la mano e me la strinsi al cuore, come per un giuramento. Era stato dichiarato lo stato d'assedio. Da un momento all'altro le mitragliatrici appostate agli angoli di via Lovanio avrebbero aperto il fuoco. Questo pareva inevitabile e logico. La nostra grande intransigenza, che è voluta dalla nostra fermissima convinzione che l'Italia non si salverà senza stroncare tutti i nemici interni, uso Töplitz, Giolitti e compagni, logicamente ci ha tenuti lontani dal partito fascista. Ma oggi che, meglio del partito fascista, Mussolini è al governo, noi non ci attardiamo in una vana parata di lealismo, ma guardiamo con un'estrema fiducia al nuovo governo, sicuri che dalle stragi e dagli incendi che ancora divampano, il paese ritroverà la sua via. Oggi si è ancora all'inizio. Sappia Mussolini che tutta la sua opera può crollare nelle fauci delle vecchie volpi che sono già contro la sua volontà. Lo Stato nuovo che ha vinto questa grande battaglia deve sapere che i suoi nemici, che sono i nemici dell'Italia, non disarmano. Fin oggi le prove di quanto diciamo sono centinaia. La commerciale ebraica corre con tutte le sue subdole energie ai ripari. Ricordi Mussolini che dopo il congresso fascista di Napoli la banca commerciale fece arrivare la sterlina a 117. Era la sua maniera di screditare il movimento fascista. Oggi, dopo un attimo di panico, essa riprende la lotta malvagia. Ricordi Mussolini che alla banca commerciale sono proposti uomini che non hanno lasciato alcuna occasione per far male all'Italia. Si ricordi di Naldi, di Della Torre, della commissione sulle spese di guerra. Ricordi che i finanziatori di Treves, Turati e Malatesta sono Töplitz e Castiglioni. Ricordi quanto egli ha scritto contro il socio di Töplitz, Camillo Castiglioni. Si vuole che Mussolini abbia detto che farà salire la lira a 50 centesimi, ma guardi il grugno dell'ebreo Yarak e dei suoi vari Olivetti e di tutti gli ebrei che comandano la Confederazione Industriale. Costoro vogliono che la lira precipiti sempre più in basso per poter smerciare quanto producono in regime di assoluta protezione. Una protesta a firma Yarak seguiva la promessa che Mussolini faceva alla nazione circa l'auspicato miglioramento dei cambi. Oggi contro tutti questi nemici un solo mezzo è buono: comandare e, se occorre, fucilare. Si sono fucilati troppi ingenui socialisti e non si è fucilato nessun finanziere ebreo che in un'ora può far tanto male all'Italia quanto non ne fanno 100 socialisti. Mussolini sa meglio di noi che il socialismo era la testa di turco dell'ebreo finanziere. Se si è accoppata la testa di turco, ora bisogna liquidare chi la faceva muovere. Mussolini ordini e annulli dalla vita pubblica tutti i vari vecchi decrepiti uomini che gli vogliono togliere ogni libertà di movimento. Guai a lui, guai al paese se si lascerà soffocare dalla legalità. La legalità non esiste in Italia che per sanzionare le cose più sudice. Per fare l'Italia bisogna governare fuori dalla legalità. Siamo all'orlo di un precipizio. Con tutto il cuore, con tutti noi stessi, invochiamo oggi questo grande esperimento e noi siamo sicuri, per la fede che anima Benito Mussolini, che questo esperimento riuscirà. Riuscirà a un patto solo: che non ci siano transazioni, accomodamenti, ripieghi. Il fascismo comincia il proprio razzismo sistematico e strutturale contro gli africani, con le guerre coloniali, la guerra in Libia e poi dopo la sconfitta della resistenza libica nel 1931, nel 1935-36 con la guerra di conquista dell'Etiopia. Sembra quasi che il razzismo contro gli africani sia una prova generale dell'antisemitismo che viene scatenato subito dopo l'attuazione della legislazione e la sua applicazione contro gli africani. In realtà non cadono a ciel sereno le leggi fasciste. Si dice che il fascismo le avrebbe fatte al seguito del regime nazista tedesco, le avrebbe fatte a seguito dell'alleanza, sarebbero state un fulmine a ciel sereno. Non è così, sono state lungamente preparate e l'antisemitismo era elemento strutturale dell'ideologia fascista. E comunque, se le leggi sono del 38, è del 1935 una riunione convocata da Mussolini a Palazzo Venezia. Siamo all'inizio del 1935 e Mussolini convoca, quindi quasi 4 anni prima della promulgazione della legislazione antisemita, Mussolini convoca i direttori dei principali giornali illustrati al Palazzo del Governo. E gli chiede, siamo in dittatura, quindi gli impone, di pubblicare in ogni numero una vignetta, un racconto o una notizia che gettino discredito o ridicolo sugli ebrei e sugli africani. La stampa di allora comincia a riempirsi di notizie, racconti, narrazioni che colpiscono in qualche modo gli ebrei. E così all'inizio di gennaio del 1938, 9 mesi prima della promulgazione della legislazione antisemita, Arresto del Carlino pubblica una recensione molto favorevole a una riedizione dei protocolli dei Sabbi Anziani di Sion, il testo antisemita per eccellenza che era già stato riconosciuto falso dall'intellettualità e anche da un processo in mezzo mondo, un processo alla corte cantonale di Berna qualche anno prima. Giugno 1937, Direzione Generale della Stampa Italiana, appunto per il Duce. La campagna giornalistica sul problema ebraico in Italia può continuare efficacemente a patto però che gli sia assegnato un preciso obiettivo. Se si vuole soltanto creare una particolare atmosfera intorno agli ebrei, sarà sufficiente qualche sporadico attacco del Tevere, del regime fascista e di qualche giornale di provincia. Il costringere gli ebrei, attraverso una pressione morale, a ripudiare l'internazionalismo che è connaturale alla loro razza, può provocare manifestazioni appariscenti, ma tali però da non offrire la minima garanzia circa la futura condotta loro. Se si intende di preparare il terreno per l'eliminazione degli ebrei da quei posti di comando che essi detengono nella vita nazionale, allora bisogna metodicamente denunciarli, ma soprattutto denunciarne i metodi. Una misura che potrebbe essere efficace è quella proposta da Federico Ottolenghi sul regime fascista della soppressione dei seguenti giornali ebrei: Davar, L'Italia sionista, Israel, Israel dei ragazzi, Rassegna mensile di Israel, La comunità israelitica. Ai dormite mia alma, che tu padre viene con mucha allegria. Nanni, nanni, nanni, nanni che religio, Eligio della madre, de chico se haga grande. Si arriva al 1938 con la pubblicazione del Manifesto degli Scienziati Razzisti il 15 luglio 1938 in forma anonima sul Giornale d'Italia e poi ripubblicato dalla rivista nel suo primo numero La Difesa della Razza il 5 agosto 1938. È firmato da 10 scienziati, sono cattedratici di patologia generale, di antropologia, di neuropsichiatria, di pediatria, di patologia speciale, di zoologia, di fisiologia generale. Tra questi, importantissimo è un bolognese, Arturo Donaggio, direttore della clinica neuropsichiatrica dell'Università di Bologna e presidente della Società Italiana di Psichiatria. Il manifesto degli scienziati razzisti è semplicissimo, sono 10 punti secchi, ognuno dei quali ha una descrizione di poche righe, che scandisce. 1. Le razze umane esistono e spiega che sono distinguibili per caratteri fisici e psicologici. 2. Esistono grandi razze e piccole razze. 3. Il concetto di razza è concetto puramente biologico e tuttavia esistono anche altre differenze, soggiunge nella spiegazione. 4. La popolazione dell'Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà ariana. 5. È una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. Questo passaggio è molto importante perché si sa che l'Italia è molto composita, invece qui si sostiene che dopo l'invasione dei Longobardi, che sarebbero stati fondamentali e che sarebbero ariani, tutto il resto è irrilevante. 6. Esiste ormai una pura razza ariana e si spiega purissima parentela di sangue che unisce gli italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l'Italia. Questo passaggio è importantissimo perché il razzismo, poiché può fondarsi solo debolmente sulla biologia, deve appoggiarsi evidentemente a una tradizione profonda. Nie ja je wawa, mas teraz mi zcioja. Eligio della madre, de chico se haga grande. Il laboratorio teatrale che inizierà il 7 di aprile è aperto alla cittadinanza. C'è una caratteristica particolare, è aperto alla cittadinanza perché per fare questa performance necessitano circa 150-180 figuranti. Quindi questo messaggio è anche un invito a chi fosse interessato di poter scrivere a info@teatrodelpratello.it per manifestare il proprio interesse e sarà ricontattato. Voci 2018-1938. La legislazione razzista in Italia dopo l'abrogazione.